Fyodor Dostoevskij, La mite, traduzione di Patrizia Parnisari. Capitolo primo. Chi ero io e chi era lei? Ecco, finché lei è qui tutto va ancora bene. Mi avvicino e la guardo ogni minuto, ma domani la porteranno via. E come farò quando rimarrò solo? Adesso lei è su un tavolo in sala. Hanno accostato due tavolini da gioco, ma domani arriverà la bara, bianca. E bianco sarà il Gros de Naples, ma del resto non è di questo. Non faccio che andare su e giù e voglio chiarirmi quel che è accaduto. Sono ormai 6 ore che voglio chiarirmelo, ma non mi riesce di fare il punto dei miei pensieri. Il fatto è che non riesco a smettere di andare su e giù, su e giù, su e giù. Ecco com'è andata. Mi limiterò a raccontare con l'ordine, l'ordine. Signori, lungi da me l'essere un letterato, e voi ben lo vedete, ma fa lo stesso. Racconterò la cosa come io stesso la capisco. E qui sta tutta la mia tragedia, nel fatto che io capisco tutto. Se volete proprio saperlo, se cioè debbo cominciare proprio dall'inizio, era lei che, molto semplicemente, veniva di quando in quando da me per impegnare degli oggetti allo scopo di pagare la pubblicazione sulla voce di annunci nei quali si diceva così e così, una governante disposta anche a viaggiare, a dare lezioni a domicilio, eccetera, eccetera. Questo accadeva proprio all'inizio e io, naturalmente, non la distinguevo dagli altri, veniva come tutti, come spesso accade, ma poi cominciai a riconoscerla. Era esile, una biondina di media statura, sempre impacciata nei miei confronti, quasi si vergognasse. Penso comunque si comportasse così con tutti gli estranei, e io, si capisce, ero per lei come chiunque altro, se mi si considera come persona, non come uomo del banco dei pegni. Non appena prendeva i soldi si voltava e usciva, sempre in silenzio. Gli altri discutono, pregano, mercanteggiano perché sia loro dato di più. Lei niente, quel che le veniva dato mi sembra di ingarbugliare tutto. Sì, mi colpirono soprattutto i suoi oggetti: orecchini d'argento dorato, un piccolo medaglione di nessun valore, cose da poche copeche. Lei stessa era consapevole del fatto che il loro valore era nullo, ma io le leggevo in volto che si trattava di oggetti per lei preziosi, ed effettivamente essi rappresentavano tutto quel che le era stato lasciato dal padre e dalla madre, come poi venni a sapere. Una volta soltanto mi permisi di sorridere delle sue cose. Il fatto è, vedete, che io atteggiamenti del genere non me li consento mai. Con il pubblico assumo un tono da gentiluomo, poche parole, con garbo e con severità. Severità, severità e ancora severità. Ma lei, in un'occasione, si era permessa di portare i resti, letteralmente i resti, di una vecchia giacchetta di lepre, al che io non mi trattenni e di botto mi rivolsi a lei con una qualche spiritosaggine. Madre mia, come montò in collera! I suoi occhi erano azzurri, grandi, pensierosi, eppure come si infiammarono. Ma non si lasciò sfuggire nemmeno una parola. Raccolse i suoi resti e uscì. Fu quella la prima volta in cui la notai in maniera particolare e pensai sul suo conto qualcosa di questo genere. Vale a dire d'un genere effettivamente particolare. Sì, ricordo ancora l'impressione di quel momento, o se volete l'impressione principale, la sintesi di tutto. Mi colpì il fatto che fosse estremamente giovane, giovane al punto da non avere più di 14 anni. E invece in quel periodo le mancavano 3 mesi per compierne 16. Ma del resto non era questo che volevo dire, non è affatto questa la sintesi. Il giorno seguente si presentò di nuovo. Venni poi a sapere che con quella giacchetta era andata da Dobrogranov e da Moser, ma quelli, eccezion fatta per loro, non prendono nulla e non le avevano dato bada. In precedenza da lei avevo preso un cameo, certo di poco valore, e riflettendoci me ne ero anche stupito successivamente. Io pure, al di fuori dell'oro e dell'argento, non prendo niente, e invece da lei avevo accettato un cameo. Questo, ricordo, fu il secondo pensiero che ebbi sul suo conto. Quella volta, vale a dire, dopo aver provato da Moser, venne da me con un bocchino d'ambra, una cosina niente male, da amatori, ma anche questa per noi non aveva alcun valore, dal momento che prendiamo soltanto l'oro. Siccome era tornata dopo la ribellione del giorno precedente, la trattai con severità. La mia severità consiste in una certa secchezza. Tuttavia, allungando le 2 rubli, non mi trattenni e le dissi con una punta di stizza: sia chiaro che io questo lo faccio solo per voi. Un oggetto del genere, Moser non ve lo prenderebbe certo. Sottolineai in maniera particolare quel per voi e lo feci proponendomi uno scopo ben preciso. Fui malevolo. Lei montò in collera sentendosi dire quel per voi, ma non fiatò, non rifiutò i denari, li prese. A tal punto conduce la povertà. Ma come montò in collera? Compresi di averla ferita. E una volta che se ne fu andata, mi chiesi d'un tratto: ma veramente quel trionfo su di lei valeva 2 rubli? Ricordo, per l'esattezza, che mi posi tale interrogativo 2 volte. Li vale? Li vale? E ridacchiando mi consentii una risposta affermativa. Quella volta fui fin troppo compiaciuto di me, eppure non ero stato mosso da un sentimento malvagio. L'avevo fatto consapevolmente, con intenzione. Volevo metterla alla prova, perché all'improvviso mi si erano affacciate alla mente alcune idee sul suo conto, e questo fu il mio terzo pensiero particolare nei suoi confronti. Ecco, fu proprio da allora che cominciò tutta la vicenda. Si capisce, a partire da quel momento mi impegnai a raccogliere per via indiretta tutte le informazioni che la riguardavano, e cominciai ad attendere la sua venuta con singolare impazienza. Quando tornò, mi imbarcai con insolita gentilezza in un'amabile conversazione. D'altronde ho una certa educazione e so quali sono le buone maniere. Compresi immediatamente che lei era buona e mite. Le persone buone e miti non resistono a lungo. E pur non aprendosi mai del tutto, è come se non fossero in grado di sottrarsi alla conversazione. Rispondono quasi a monosillabi, ma rispondono, e più si va avanti, più parlano. L'unica è che non siate voi ad esistere se vi preme parlare con loro. È ovvio, in quell'occasione lei, di sua spontanea volontà, non mi raccontò nulla. Solo successivamente venni a sapere della voce e di tutto il resto. In quel periodo, facendo ricorso alle sue ultime forze, lei pubblicava delle inserzioni, inizialmente, è chiaro, scritte in tono pretenzioso: offresi governante disponibile a viaggiare, spedire le condizioni in busta chiusa, per poi cedere in seguito: disponibile a tutto, come insegnante, come dama di compagnia, a badare all'economia domestica, ad assistere un malato, e so anche cucire, eccetera, eccetera, quello che si mette sempre. Ovviamente tutto ciò veniva aggiunto al testo da pubblicare di volta in volta. Alla fine, quando ormai incombeva la disperazione, si offrì senza salario per il solo vitto. Ma no, un posto non lo trovò. Decisi allora di metterla alla prova un'ultima volta. Aprii a sorpresa la voce di quello stesso giorno e le mostrai un annuncio. Giovane signorina, orfana di entrambi i genitori, cerca un posto da governante per bambini in tenera età, di preferenza presso un vedovo anziano. Può contribuire alla gestione della casa. Ecco, vedete, questa mattina lei ha pubblicato un annuncio e stasera, senza dubbio, avrà trovato il posto. Così vanno scritte le inserzioni. Di nuovo montò in collera. Di nuovo i suoi occhi si infiammarono. Si girò e se ne andò immediatamente, il che mi piacque molto. D'altronde a quel punto io mi sentivo più che sicuro e non avevo paura di nulla. Nessuno si sarebbe fatto avanti per prendere a pegno bocchini come quello. E poi di bocchini non ne aveva già più. Infatti si ripresentò 3 giorni dopo, tutta pallida, sconvolta. Compresi che doveva essere successo qualcosa a casa sua, come era effettivamente accaduto. Spiegherò subito quel che era successo, ma prima voglio ricordare sommariamente come quella volta fosse riuscito d'un tratto a far colpo su di lei e a crescere ai suoi occhi. Improvvisamente, infatti, m'ero prefisso di raggiungere questo scopo. Il fatto è che lei aveva portato quell'icona, si era decisa a portarla. Ah, ascoltate, ascoltate, avevo appena cominciato e già ho confuso tutto. Ora vorrei ricordare proprio tutto. Ogni minuzia, ogni dettaglio, vorrei fare il punto dei miei pensieri, ma non posso, ecco, tutti quei dettagli, dettagli. Era un'icona della Vergine, una Vergine col bambino, un'icona familiare, domestica, alquanto vecchia, con un rivestimento in argento dorato, del valore di 6 rubli. Vedevo che l'icona le era cara, ma voleva impegnarla tutta senza togliere il rivestimento. Allora le dissi: meglio staccare il rivestimento e l'immagine ve la riportate via, tanto più che è un'immagine un po' singolare. Vi è forse vietato prenderla? No, non è che sia vietato, ma forse voi stessa. E allora togliete il rivestimento. Facciamo così, io non toglierò il rivestimento e metto l'icona là, nell'edicola, replicai dopo averci pensato un po' su. Con le altre icone, sotto la lampada. Da quando avevo aperto il banco era sempre rimasto acceso un lume. E voi, molto semplicemente, vi portate via 10 rubli. Non ho bisogno di 10 rubli, datemene 5 e di sicuro verrò a riscattarla. Non ne volete 10? Eppure l'icona li vale, soggiunsi, rendendomi conto che gli occhi le si erano nuovamente illuminati. Lei tacque. Le porsi 5 rubli. Non disprezzate le persone. Io stesso mi sono trovato in frangenti analoghi, anche peggiori, e se adesso mi vedete dietro questo banco è per tutto quello che ho subito. Volete vendicarvi della società? È così? Mi interruppe d'un tratto con una smorfia alquanto velenosa, in cui vi era d'altro canto molto di innocente, vale a dire di comune, perché in quel momento lei non mi distingueva affatto dagli altri, al punto che si era espressa in maniera quasi innocente. Ah, pensai, ecco come sei, il tuo carattere viene a galla. Sei sensibile al nuovo. Vedete, aggiunsi subito tra lo scherzoso e il misterioso, io sono una parte di quella parte del tutto che vuol fare il male e crea il bene. Lei, con uno sguardo rapido e molto curioso, nel quale d'altro canto vi era molto di infantile, si rivolse a me. Aspettate, che pensiero è mai questo? Da dove viene? Da qualche parte l'ho già sentito. Non rompetevi il capo. Con queste parole Mefistofele si presenta a Faust. Il Faust, l'avete letto? Non attentamente. Il che significa che non l'avete letto affatto. Eppure leggerlo si deve. D'altronde vedo nuovamente sulle vostre labbra una piega beffarda. Vi prego, non supponete che io pecchi di cattivo gusto al punto da volermi presentare a voi come Mefistofele, solo per mascherare il mio ruolo di uomo del banco dei pegni. Un usuraio rimane sempre un usuraio, lo sappiamo. Che strano che siete. Non volevo affatto dirvi una cosa del genere. Lei voleva dire: non mi aspettavo che foste una persona così istruita. Ma non l'aveva detto, eppure io sapevo che l'aveva pensato. Le avevo fatto una certa qual straordinaria impressione. Vedete, soggiunsi, in ogni sfera si può fare qualcosa di buono. Non lo dico per me, ovviamente, io, diciamo, a eccezione del male, non faccio nulla, ma è naturale, si può fare del bene in qualsiasi luogo, disse lei, lanciandomi uno sguardo rapido e penetrante. Proprio in ogni luogo, aggiunse all'improvviso. Oh, ricordo tutti quei momenti e voglio ancora aggiungere che quando questa gioventù, questa cara gioventù, vuole dire qualcosa di intelligente e profondo, allora mostra ad un tratto un volto troppo sincero e ingenuo, quasi a voler far capire che, ecco, ora ti dirò qualcosa di intelligente e profondo. E non per vanità, come farebbe uno di noi, anche perché tu stesso vedi che questa gioventù conferisce a tutto ciò uno straordinario valore e presta fede e rispetto e pensa che anche tu, proprio come a essa succede, lo rispetti. Oh, quale sincerità! È appunto così che i giovani vincono, e in lei com'era incantevole tutto questo. Ricordo, non ho dimenticato nulla. Non appena lei uscì, d'un tratto mi decisi. Quello stesso giorno feci le ultime ricerche e venni a sapere sul suo conto quel che mi restava da conoscere, l'antefatto più recente. Di tutti quelli precedenti, ero già venuto a conoscenza da Lucheria, che allora serviva a casa sua e che avevo comprato alla mia causa alcuni giorni prima. Questo antefatto era così terribile che io non comprendo come le fosse stato ancora possibile ridere, come pure aveva fatto poche ore prima, e incuriosirsi per le parole di Mefistofele, benché fosse stata protagonista di un tale incubo. Ma così è la gioventù. Proprio questo pensavo di lei in quel momento con vanto e gioia, poiché in ciò vi era anche una certa qual grandezza d'animo, come se dicesse, pur sull'orlo della rovina, le grandi parole di Goethe continuano a brillare. La giovinezza, fosse anche in piccolissima misura o in un senso distorto, è sempre generosa. Cioè, io lo dico per lei sola. E, cosa più importante, io in quel momento guardavo ormai a lei come fosse mia e non nutrivo dubbio alcuno sulla mia forza. Sapete, dolcissimo può essere questo pensiero quando ormai non dubiti più di nulla. Ma che mi sta succedendo? Se continuo così, quando mi riuscirà di fare il punto della questione? Presto, presto. Non sta certo qui la questione, Dio mio.